e Radio SSG, come ogni giorno, vi augura un buon risveglio. Porca che occhi. Ma chi scrive a sta ora? Al mio complice anche lei. Ma sta scherzando? E come faccio ad andare? No, non posso andare. Se mi vede ci resto secco. Maledetto cane. È andato a invitarla al suo compleanno. Che pezzo di merda. L'ha fatto apposta. Fortuna che ultimamente non penso. Ultimamente